Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ogni santi, ma sembra il giorno dei morti, a giudicare da quello che sta capitando in borsa. Anticipiamo il 2 di novembre, quindi come volete che partiamo oggi? Milano perde quasi il 7%, come ricordavamo, Parigi il 5%, ma ripeto, oltre ai titoli di borsa, visto che oggi Milano lavora praticamente con ritmo festivo, la cosa più preoccupante non è il crollo di Unicredit meno 12, di Intesa San Paolo meno 15, è tornata a 1,09 euro, magari per 3-4 sedute recupera qualcosa. E vabbè, il punto vero, a mio avviso, è il termometro del rischio Italia, di quello greco non voglio neanche parlare in questo momento, e cioè la differenza tra quanto costa a noi offrire e trovare dei compratori per il nostro debito e quanto costa la Germania, il famoso spread, quello che ormai sta diventando argomento di conversazione purtroppo anche per chi va a fare la spesa o va al bar. Beh, lo spread ha raggiunto i 440 punti, il rendimento del BTP italiano a 10 anni è al 6,3%. Ora, c'è un modo, c'è un consenso a livello mondiale che quando un rendimento di un'obbligazione supera il 7%, come avvenne, e qui però qualche gesto scaramantico, come avvenne per l'Argentina, sopra il 7% tu non riesci più a rientrare, ossia hai difficoltà a sostenere un debito che per essere finanziato come se fosse un privato cittadino deve offrire il 7% di rendimento, no? Immaginate se la banca vi chiedesse il 7%, alcuni sarebbero contenti visto quello che fanno le banche, però qui parliamo degli stati sovrani. Ecco il punto: spread a 440 punti, CDS, ossia il premio che si paga sulle polizze per assicurarsi sul rischio Italia, ha un nuovo record mai visto per quello che riguarda appunto i CDS. Allora, 491 punti, 58 punti presi solo oggi, così come sullo spread abbiamo preso 30 punti in un giorno. Ha superato il record di inizio agosto, non c'è dubbio su questo, era 417. Per cui siamo a 440, molto peggio inizio agosto, bruciato tutto l'effetto della manovra finanziaria di luglio, della manovra finanziaria di agosto, della lettera della BCE, della lettera nostra a Bruxelles. Siamo ripartiti da zero, come quando si fa il gioco dell'oca e becchi la casella in cui torni al punto zero. Primo aspetto, per mettere un po' di chiarezza, perché la puntata è praticamente monografica, quindi avremo modo di parlarne. Secondo aspetto è l'elemento politico. Oggi la miccia l'ha innescata la Grecia. Ieri sera, a sorpresa, Papandreou ha annunciato, il premier greco, che faranno un referendum a metà gennaio per decidere se aderire alle richieste d'Europa o no. Questo ha creato il panico sui mercati, perché la Grecia ha appena ricevuto la tranche da 8 miliardi, ha appena negoziato il rimborso del 50% delle sue obbligazioni, e chiaramente se vincessero i no, la Grecia ha soldi fino a metà gennaio, questa tranche di 8 miliardi sarebbe a pagare gli stipendi greci fino a metà gennaio. Da lì il panico e comunque le vendite fortissime. Chi ne ha subito le conseguenze più forti? Beh, non bisogna essere un genio. L'Italia perde, Milano perde il 6,80%, Parigi perde il 4,80%, cioè due punti in meno. L'Italia che è vista come il vero problema in questo momento. Poi arriviamo alla variabile politica, ne parleremo più avanti. La variabile politica vuol dire il silenzio di Tremonti, il Presidente del Consiglio che ha parlato però è tornato rapidamente a Roma, era fuori Roma evidentemente, e girano voci di un possibile Consiglio dei Ministri straordinario questa sera, perché le richieste sono molto forti. Vedo già un ascoltatore che vuole polemizzare, uno che apre così una puntata andrebbe eliminata, sono un maniaco finanziario. Vabbè, poi mi spieghi lei di cosa dobbiamo parlare quando abbiamo i BTP al 6,40%. Una cosa la voglio dire per alleggerire il programma che sarà oggi, da, ripeto, 2 di novembre più che da ogni santi. Malcene in call, se faccio ammenda, quando giovedì scorso, con un rialzo molto forte, dopo la lettera italiana a Bruxelles, dopo l'accordo sul Fondo Europeo di Salvataggio da 1.000 miliardi, dopo tutti il volemos e bene alla fine europeo, mandammo in onda il gallo per dire: oh, forse c'è un giro di boa su vostra richiesta. Ebbene, il gallo ha portato sfiga e quindi adesso il gallo per un po' non lo mettiamo più e abbiamo trovato, diciamo, una canzone da dedicare al gallo, a un gallo che è morto. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto. Non canterà più e coccodì e coccodà, non canterà più e coccodì e coccodà. Buona festa. Sì, addirittura c'è qualcuno che per sfogare la rabbia, un po' come il capro espiatorio degli antichi, vuole bollire in pentola il gallo. Ma povero gallo, che colpa ha? Vabbè, vi leggo le altre notizie e poi facciamo la cronaca di questa giornata. Una notizia buona c'è, ed è che il tartufo bianco, per chi volesse smobilizzare gli investimenti in BTP e in azioni, beh, insomma, il tartufo bianco dà ottime garanzie. Il tartufo bianco di San Miniato, non quello di Alba, ma quello in provincia di Pisa, è salito in una settimana da 1.500 a 3.000 euro al chilo, il 100% in più. E per la piccola media 2.500. Pioggia scarsa, aumento della richiesta, hanno fatto aumentare il prezzo dei tartufi e quindi attenzione tutti a San Miniato dal 12 al 13, poi 19, 20, 26, 27 novembre si fa arbitraggio sul tartufo bianco, che voglio dire, male che vada uno se lo gratta il tartufo. Non mi fate fare battute, perché questo mercati non è che uno gratti solo il tartufo. Comunque da 1.500 a 3.000 euro al chilo. Ancora, per quello che riguarda invece il comune di Milano, e cioè la decisione di andare verso l'unica operazione sulla un'unica gara per la cessione del 18,6% della Milano Serravalle e per il 20% di SEA, che è la società aeroporti di Milano. La gara sarà aperta a offerte sia congiunte sia disgiunte. La base d'asta per il 18,5% della Milano Serravalle è 145 milioni, mentre per trovare la base d'asta per l'aeroporto di Milano per il 20% della SEA ci si è affidati a KPMG. Comunque non sarà inferiore ai 235 milioni di euro offerti dal fondo F2I, quello di Vito Camberale. Una buona notizia arriva dalla Gran Bretagna, che cresce più del previsto quanto economia: nel terzo trimestre più 0,5% contro uno 0,3% atteso. E adesso, beh, c'è poco altro oggi. Volete sapere cosa fa il petrolio, la borsa? Petrolio sotto i 90 dollari al barile, poi risale. Oro in calo, ma sempre a 1688 dollari l'oncia. Ripeto, tutto si è innescato con la decisione greca del referendum. Il problema è che quando, come in un corpo già malato, tu ti becchi un raffreddore o becchi l'ennesimo colpo di freddo, poi precipita tutto, nel senso che il problema è greco, ma le ripercussioni le stiamo beccando noi. Eccola qua, meno 7% Milano in questo momento, meno 7,02% sotto i 15.000 punti in MIB. Le stiamo beccando noi le ripercussioni, perché la Grecia è solo il pretesto per andare a dire che questa Europa non riesce a tenere. Domani c'è un nuovo vertice, Merkel, Sarkozy. I due, diciamo, che hanno grosse responsabilità nella non gestione di questa crisi. Comunque, raccontiamo la giornata per chi si fosse appena messo in collegamento, per chi sta tornando dal ponte e per chi, insomma, sperava di pensare altro. Eccoci qua, che base potevamo usare se non Dario Argento? Allora, si apre stamattina, dopo la decisione greca di indire un referendum per votare sì o no alle richieste dell'Europa, schizza subito il nostro spread, quindi quanto tocca offrire di più a noi rispetto alla Germania, a 433 punti. Milano apre ed è subito una botta, meno 2,5, poi meno 3%, alle 9,10 siamo già a un meno 4%, Francoforte apre malissimo anche lei, meno 3%, Milano dalle 9, ve lo dico perché così uno magari capisce cosa è successo stamattina. Dalle 9.03, aperto a meno 2.30, alle 9.11, cioè dopo la bellezza di 8 minuti, era già a un meno 4%, cioè 2 punti percentuali in 8 minuti. E poi alle 9.30, 436 punti lo spread con la Germania. Apre Atene, e vabbè, meno 6.75% la borsa di Atene in apertura. La Banca Centrale Europea alle 10.30 annuncia che sta comprando titoli di Stato italiani, ma non serve. Le banche iniziano a affondare, Intesa meno 10, Unicredit meno 7%. E i CDS, i Credit Default Swap sull'Italia, i premi pagati alle polizze per assicurarsi contro il rischio Italia schizzano a un record 495 punti, 58 punti in due ore. E a quel punto si rompono gli argini, Milano perde il 5%, Francoforte e Parigi il 4%. L'intervento della Banca Centrale Europea frena un po' i rendimenti, ma poi arriva anche l'agenzia di rating Fitch a dare una spinta a chi era già lì sul burrone. Perché Fitch dice, attenzione, il referendum di Atene minaccia la stabilità dell'Unione Europea. Ringraziamo. E vabbè, allora si va a 440 punti nello spread, Milano inizia a perdere il 6%, nuovo record a 443 punti, questo, diciamo, la situazione si stabilizza, anche se a me ricorda la barzelletta di quello che cade dal grattacielo e mentre scende lungo i piani dice, beh, fin qua tutto bene. La situazione si stabilizza verso l'1.30, quando lo spread resta a 440 punti, il BTP rende il 6.26%, alle 2 c'è una raffica di sospensioni a Milano per eccesso di ribasso, alle 2.30 sfonda il muro dei 455 punti, il BTP va al 6.33%. La cosa impressionante è che schizzano tutti i rendimenti anche dei BTP a 2 anni e 5 anni. Come va adesso? Meno 7% Milano, meno 15,80% Intesa San Paolo, meno 12,40% Unicredito, meno 11,50% Fondiere Assai, meno 10% il Monte dei Paschi, meno 10% Fiat, meno 9,20% il Banco Popolare. Sapete che ce l'ho un po' con i francesi in questi giorni? Allora, le peggiori banche in Europa in questo momento sono quelle francesi, perché sono piene di obbligazioni greche, obbligazioni spagnole, obbligazioni italiane e anche obbligazioni tossiche, meno 17,60% Société Générale, meno 14% BNP Paribas, il colosso assicurativo AXA perde il 13%, Crédit Agricole perde il 13% anch'esso. E oggi è anche il giorno in cui Mario Draghi si è insediato come presidente della Banca Centrale Europea. Ora, mi raccomando, nessuna battuta di carattere scaramantico. Però, voglio dire, non poteva esserci un insediamento più difficile. Angela Merkel chiede a Draghi di lavorare per la stabilità dell'euro, non si capisce che altro dovrebbe fare altrimenti. Domani, all'incontro tra Angela Merkel e Sarkozy, vi sarà anche il premier greco Papandreou, ma la Grecia è in difficoltà in questo momento perché la maggioranza di Papandreou sta perdendo deputati. Sono scesi a una soglia su 300 deputati che ci sono al Parlamento greco. In questo momento la maggioranza si regge con 151 deputati. Sarkozy ha convocato il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio alle 17 e qui la polemica politica riguarda il governo italiano. Mi dispiace, inutile che vi arrabbiate, perché Sarkozy convoca un CDM, un Consiglio dei Ministri alle 17 a Milano, a Roma Berlusconi rientra perché era via, ha detto agiremo con tempestività e rigore, illustreremo le misure dell'Italia al G20, il G20 è questo weekend, però io non so come ci arriviamo a sto weekend. Rientra alle 3 di pomeriggio, Berlusconi era atteso in serata, e un esperto dice, premesso che l'attacco speculativo sull'Italia è irrazionale sulla base dei fondamentali economici dell'Italia, il silenzio di oggi dei nostri esponenti di spicco del governo, a partire dal silenzio del ministro Tremonti, non può far bene. Tremonti, parla! Circolano voci che vi saranno subito emendamenti nella legge di stabilità, forse un Consiglio dei Ministri e io poi ne parleremo alle 18. Oggi, sole 24 ore, c'è un editoriale del direttore Roberto Napoletano, ma ci sono i 5 punti, le 5 mosse per salvare l'euro, il governo economico europeo, l'estensione del mandato della BCE, gli eurobond, le obbligazioni, il mercato unico bancario. Io non so se si può arrivare in questa situazione al G20. E allora andiamo con ordine. La miccia è di nuovo greca, è di nuovo ellenica, e cerchiamo di capire che come mai Papandreou, spiazzando tutti, lo dico con la massima chiarezza, dopo l'accordo della settimana scorsa, il caso greco era abbastanza chiuso. Hanno beccato 8 miliardi di tranche, il Fondo Europeo di Salvataggio ha aumentato la sua dote a 1.000 miliardi, la Grecia è massacrata dalle richieste che le sono arrivate, meno 50% degli stipendi, dei tredicesimi, licenziamenti, quello che volete, ma sembrava chiuso, invece si è riaperto tutto ieri a sorpresa in serata. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, perché il referendum che si terrà a gennaio in Grecia è un voto sul piano di aiuti europei e della Banca Centrale del Fondo Monetario in cambio di tutte le richieste arrivate, richieste, ripeto, pesantissime alla Grecia, ma anche il fatto che le banche europee hanno accettato, per esempio, quelle francesi e tedesche soprattutto, di avere un rimborso al 50% delle loro obbligazioni. Molto criticato l'accordo in Grecia perché ritenuto una rinuncia di fatto alla sovranità nazionale, e insomma questo a sorpresa Papandreou fa una mossa che non riusciamo ancora a spiegarci. Ecco perché chiedo aiuto da Atene, in collegamento con noi, con un nostro ospite già altre volte, un finanziere, fa consulente finanziario anche in Grecia, è greco, Dionisio Xope, buonasera. Allora, mi dica una prima cosa, visto che lei segue con attenzione, è già stato nostro ospite, com'è che Papandreou ha dato così il via libera al referendum inizio gennaio senza nemmeno avvisare Bruxelles, da quello che si è capito? Dunque, il grave è che non solo non ha informato Bruxelles, ma non ha neanche informato il suo ministro delle finanze. Si dice che alla base di questa decisione ci fosse un sondaggio fatto da una società di sondaggisti con una grande credibilità che si chiama Kappa Research, e in base al quale dopo l'accordo con i creditori esteri in realtà ci fosse uno stragrande consenso che questo accordo avrebbe dovuto essere posto come oggetto di un referendum. È evidente che Papandreou ha deciso di fare una fuga in avanti e di troncare invece le richieste di elezioni anticipate che erano state fatte da tutta l'opposizione in maniera concorde, a partire da Nea Democratia, che come sapete fra l'altro è un partito che è corresponsabile dello sfacelo delle finanze greche. Sì, perché governava prima e ha truccato i conti. Sì, va bene la fuga in avanti, però attenzione che la fuga in avanti può portare al precipizio. Quindi, cioè, se passano... La fuga in avanti può portare al precipizio, probabilmente lo porterebbe se il sondaggio fosse fatto domani. Io personalmente sono perfettamente... è d'accordo che è un gamble molto rischioso. Una scommessa, diciamo. È una scommessa molto rischiosa, ma è l'unica mossa che fosse ancora disponibile a Papandreou, e il fissare una data procrastinata nel tempo a gennaio consente di fare ai greci le festività e di pensarci molto bene prima di votare contro il referendum. Cioè, è chiaro che in un'elezione greca Lui va sotto, ho capito benissimo cosa dice. Beh, dal suo ritratto esce un Papandreou cinico, con i nervi, anche con la freddezza dello scassinatore, potremmo dire, perché pur sapendo che questa decisione avrebbe travolto, perlomeno nel presente, i mercati e gli spread greci, oltre che quelli italiani, se ho ben capito il suo ragionamento, Papandreou, se va a elezioni, perde e cade. Se invece obbliga il paese a pronunciarsi su un referendum, sì o no, verso l'accordo con l'Europa, se vincono i sì, a quel punto si è blindato la legislatura e può andare avanti con le riforme. Ho capito bene? Ha capito bene. Si noti che da domani comincia il voto di fiducia in Parlamento. Ora la maggioranza del Partito Socialista si sta erodendo un po' per volta. In Parlamento ci sono 300 voti, la maggioranza del Partito Socialista era di 154, hanno perso un importante deputato che fra l'altro era un ex ministro subito al momento dell'accordo con i debitori esteri. Questa mattina ha dato le dimissioni una importante deputatessa della periferia greca, e subito dopo un'altra, per cui siamo arrivati a 151, ed è in questa situazione che si va al voto di fiducia domani, il cui risultato sarà noto la sera del 4 di novembre. Mamma mia. Vabbè, e se passa la sfiducia? E se passa la sfiducia, allora è più forte l'argomento del referendum, delle elezioni anticipate. Ah, ecco. Per cui diciamo, è un tentativo, da come lo sta descrivendo, di Papandreou di giocare in extremis l'ultima carta, chiamare il paese a un voto che non c'è mai stato da quando è stata abolita la monarchia in Grecia nel 1974. Non hanno mai avuto, a differenza nostra, un referendum. E quindi dice: io vi chiamo al referendum a inizio gennaio, fatevi le vacanze, ragionate, sarete sommersi dalla tempesta finanziaria. A quel punto proprio le pressioni internazionali potrebbero portare Grecia a far votare il sì piuttosto che no, anche se in questo momento il paese è nettamente contro l'accordo europeo, perché si dice in Grecia è una rinuncia de facto al principio di sovranità nazionale. È vero probabilmente, ma non è che l'abbiano esercitata così bene questa sovranità nazionale. Mi dia la sua previsione invece sul voto, visto che la maggioranza è risicatissima, sembra la maggioranza del governo Prodi di una volta, 151 su 300 deputati, 152, 151, e poi... No, però è ormai un modo di dire nella politica greca che con 151 deputati si governa. Certo, non è una situazione ideale. Si noti in questo contesto un'iniziativa che sembra un'iniziativa parallela, ma in realtà sì, potrebbe essere pilotata da Papandreou stesso, di una deputata di una certa notorietà nel Parlamento europeo, che si chiama anche lei Papandreou, e Vasso Papandreou, ha avuto delle cariche importanti nell'Unione molti anni fa, che insiste su un tema logico, che è quello del governo di unità nazionale. Mi dica un'ultima cosa, dottor Chopsey. Secondo lei la Grecia, così come opinione pubblica, come appunto anche maggioranza fuori dal Parlamento, è pronta ad arrivare anche a uno scontro? Insomma, da metà gennaio non ci sono più soldi, l'ultima tranche, quella da 8 miliardi, arriva fino a metà gennaio. È pronta anche a uno scontro frontale, pur di salvare, diciamo, l'orgoglio, l'autonomia, o alla fine si piegherà, un po' come fece l'Argentina a suo tempo? Ma sa, purtroppo tenga presente che in Grecia, come mi sembra di averle già detto nel corso del nostro ultimo incontro, ci sono due partiti comunisti molto forti, molto belligeranti. C'è una grossissima frangia non controllata, è molto possibile che ci sia un proseguire di questa situazione di scontri di piazza, che potrebbero avere un esito assolutamente di tipo argentino. Naturalmente noi speriamo che tutto questo non succeda, però... Uh-huh. Senta, ma come si vive Atene in questi giorni? Bene, male, maluccio? Atene non è più quella di una volta, evidentemente i consumi sono crollati, il budget del Ministero della Cultura è risicatissimo, per fortuna è stato sufficiente per aprire il museo dell'Acropoli l'anno scorso, e quello è stato... Perché c'è il rischio che non abbiano nemmeno i soldi per aprire l'Acropoli? No, il museo dell'Acropoli. Inaugurare il museo dell'Acropoli, sì, certo. No. E quello è stato probabilmente il canto del cigno delle spese nel settore della cultura, insomma, questo è un film già visto in tutti i paesi, naturalmente restano sempre intoccate le spese militari sulle quali abbiamo già detto di quanto abbiano pesato in questa sfida assurda con la Turchia le spese militari, le commesse fatte alla Siemens, ai grandi colossi, al Storm francesi, per... Bellissimo quel suo racconto per... Cos'erano? Sottomarini senza siluri? Cos'è che mi raccontava l'ultima volta? Senza lanciamissili, insomma, ti fai un giro, ci guardi di pesci con un sottomarino così. Tutto per questo orgoglio greco, ma questo ormai è storia, come si dice in gergo. Grazie a Dioniso Ciopsei, consulente finanziario in collegamento con noi da Atene. La saluto, alla prossima, arrivederci. Dottor Fabrizio Fiorini è responsabile dell'asset allocation investimenti diretti di Aletti Gestielle SGR, buonasera. Buonasera a voi. È l'1 novembre o il 2 novembre oggi? il problema è che il 2 rischia di essere come l'1. No, voglio un gufo. No, aspettiamo un attimo, allora, lei è al lavoro, è tornato al lavoro diciamo perché... No. Senta, che domanda è molto semplice, con lo spread a 455 punti... per cui rendono il BTP a 10 anni rende il 6,33%. Chi ce li ha già e chi li ha comprati in questi anni? Bot, BTP, CCT, e quindi vede calare il prezzo, perché se aumenta il rendimento cala il prezzo. Quindi tu li hai comprati, poniamo, a 99, molti valgono 97. Ci rimetti oltre il 2%, che è praticamente molto al di là del rendimento netto. Vende, non vende, se vende che fa? Io, purtroppo le perdite in molti casi sono maggiori di questo 2% di cui si parlava. Volevo essere buono. La risposta comunque è tenere assolutamente. In questa fase il 6,30 di rendimento vale come il 6, vale come il 5,70, cioè in realtà sono rendimenti a cui si scambia ben poco sul mercato secondario dei titoli di Stato. Sì, nelle aste i collocamenti escono a rendimenti molto alti, ma la volatilità è incredibile ed è legata a una... È una questione molto semplice. L'Europa, sentivo prima nel vostro servizio dire ecco cosa vuol dire essere in Europa, purtroppo il problema è cos'è l'Europa in questa fase, e forse una risposta arriverà domenica con il G20, quando qualcun altro da fuori, quindi non gli europei, i cinesi, da fuori, gli americani anche, perché non dimentichiamo che gli americani faticosamente stanno recuperando crescita nella seconda parte dell'anno, hanno sofferto tantissimo nella prima e rischiano di vedere vanificato tutto da incompetenze, perché bisogna parlare, penso, abbastanza chiaro. Qui stiamo parlando veramente di una incompetenza alla leadership da parte dei tedeschi, una inettitudine per certi versi dei tedeschi alla leadership, che hanno giocato malissimo le loro carte a partire dallo scoppio del caso greco oltre un anno fa e stanno continuando a fare molto male. Cioè, voglio dire, tu hai due possibilità con la Grecia: o la facevi fallire subito un anno fa e ci evitavamo sta menata, scusatemi il francesismo, agonizzante, oppure la salvavi e basta, perché farla fallire lentamente è una tortura, no? Cioè, voglio dire, è accanimento terapeutico, direbbero i medici. Allora potevi decretare subito l'eutanasia e si ripartiva, o se no la salvavi, perché qua, dottor Fiorini, abbiamo speso 1.000 miliardi di capitalizzazione di borsa, la compravamo 10 volte la Grecia con 1.000 miliardi, o sbaglio? Questo è il problema grosso, nel senso che probabilmente con poco si risolveva tutto ai tempi. E poi si è scoperto che non serviva poco, ma serviva di più, ma di questo di più in parte erano numeri truccati dalla Grecia, ma gran parte una mala gestione degli europei, che hanno continuato a cambiare le carte in tavola. La lungimiranza tedesca o la flessibilità tedesca è pari alla modestia francese, possiamo dirla così? Sì, probabilmente sì, con la differenza che la modestia francese danni agli altri non ne fa, questo tipo di atteggiamento tedesco sta facendo danni agli altri. E la cosa, diciamo, nuova dell'ultimo mese e mezzo è che anche i tedeschi iniziano a soffrire. Oggi senti il DAX fa meno 5, non fa molto meglio del MIB. Vedrai, no? Vedrai che si muovono anche i tedeschi, perché già ad agosto, esatto, quando il DAX iniziò a perdere 4-4,5, la Germania si svegliò da questa illusione di essere diversa o superiore, Deutsche über alles, rispetto agli altri. Sei legata, sei piena di miliardi di obbligazioni italiane, spagnole, Grecia, se andiamo a fondo noi vai a fondo anche tu, cara la mia Deutschland, prego. Esatto. Infatti questo è il problema, loro hanno continuato a pensare di poter educare, cioè, quelli che loro ritengono i loro figli, no? Cioè tutti gli altri governi europei, in maniera teutonica. Il problema è che si sono fatti, sì, però quando tu il figlio lo bastoni troppo, poi questo si droga, va a fare le rapine, scappa di casa, o muore. Quindi comunque l'indicazione è tenere le obbligazioni BTP, CTZ, BOT, lei che li gestisce? Sì, assolutamente sì, perché penso che nel fine settimana il G20 darà una risposta molto diversa. Cioè l'America ci bastonerà? Sì, penso di sì, perché penso che, voglio dire, il piano italiano non è stato fatto dagli italiani, ma è stato fatto in sede europea, no? È stato detto, certo, chiaramente abbiamo bisogno di queste cose. Poi gli italiani, come al solito, fanno finta di non capire, interpretano male, scusa, non avevo capito, e quindi siamo riusciti a far male anche una cosa che ci hanno scritto a chiare lettere. Cioè, a copiare male, che è la cosa peggiore. A copiare male, esatto. E probabilmente gli americani, i cinesi, ma non solo, anche tutti i paesi emergenti. Si sono rotti delle baruffe chiozzotte europee, ho capito benissimo, esatto, il suo ragionamento. Esatto. Fiorini, la risentiremo magari anche domani per vedere come butta il mercato proprio dentro i rendimenti. L'indicazione però è chiara: non vendete adesso, a meno che non abbiate bisogno, perché è sicuro che portate a casa tutte le perdite. Allora, rifacciamo il punto per chi si fosse avrà messo in collegamento. Dicevamo, più che ogni santi sembra il giorno dei morti oggi. La peggior seduta di borsa dal crack Lehman Brothers per Milano, meno 6,80%, la peggior seduta di borsa da sempre. Per Intesa San Paolo meno 15,80% e Unicredit meno 12,44%. Milano è la peggiore, non se la cavano molto meglio né Parigi meno 5,40% né Francoforte meno 5%. Londra ha perso il 2,20%, l'America sta perdendo il 2,36%. Le banche francesi, se possibile, perdono anche più di quelle italiane, nel senso che Société Générale ha perso il 17%. L'effetto miccia è stato il referendum che la Grecia ha deciso di indire, Papandreou, avete sentito, per motivi politici, perché non ha più la maggioranza, e allora dice: se io mi blindo con il referendum posso andare avanti, perché sennò non riesco a reggere una maggioranza parlamentare ormai di un solo deputato, 151 contro 149, ha scatenato la sfiducia sui mercati, l'Italia ne ha pagato conseguenze pesantissime. Gli ultimi aggiornamenti. Confermo che il presidente francese Sarkozy ha indetto un consiglio dei ministri straordinario alle 17, ce n'è uno in corso anche ad Atene. Non siano notizie dell'Italia, invece, nel senso che il presidente Berlusconi è tornato a Roma, doveva rientrare stasera, è rientrato al pomeriggio alle 3. Non ci sono dichiarazioni del ministro Tremonti. Tremonti! E intanto il ministro degli esteri Franco Frattini incontrerà in serata il premier Silvio Berlusconi, dopo aver avuto un colloquio con il suo corrispettivo come ministro degli esteri greco Stavros Lambridinis. Ne parliamo, facciamo il punto, perché ripeto, secondo me a questo punto la variabile è politica. Qui abbiamo bruciato tutti i rialzi di ottobre, siamo tornati con lo spread è a record storico, 440 punti, peggio di inizio agosto, peggio di prima della finanziaria, della lettera a Bruxelles, della lettera alla BCE. I CDS sono a 490 punti, i BTP rendono il 6,30%, il livello di rendimento intorno al 7% è considerato da tutti un livello vicino al punto di non ritorno, perché con tassi così alti hai difficoltà a reggere il tuo debito. Ne parliamo intanto con una voce che conoscete tutti e domani si occuperà, immagino, di questo, Oscar Giannino, buonasera. Eccoci qua, buon pomeriggio. Avrei preferito non sentirti, si dovete la tutta oggi. E invece grazie anche all'ex Presidente del Consiglio, nonché Presidente della Commissione Europea, Professor Romano Prodi, buonasera. Buonasera a voi. Professor Prodi, vorrei iniziare con lei. Allora, siamo finiti di nuovo in questo baratro, perché i greci hanno indetto un referendum in maniera sconsiderata, Papandreou spregiudicatamente va a forzare la mano e dice o la va o la spacca, o perché Sarkozy e la Merkel, cioè Francia e Germania, hanno, soprattutto la Germania, tentennato troppo cercando di non salvare la Grecia, poi sì la salviamo, poi non la salviamo. Chi dei due? Ma il principio generale è che di elezioni ferisce, di elezioni perisce. Cioè qui ormai ognuno fa i suoi interessi, l'Europa è intergovernativa, ognuno guarda le elezioni di casa propria. Sulla Grecia si poteva risolvere tutto in un breve periodo di tempo, ma c'erano le elezioni nel Nordrhein-Westfalen. Per queste elezioni il problema piccolo è diventato enorme. Ora alla Grecia restituisce la stessa cosa, se si può dire questo, cioè Papandreou guarda ai suoi interessi e chiude il circolo che si era aperto con un favore identico fattogli dalla Germania. Se vogliamo poi andare più in particolare, non si poteva pretendere di più dalla Grecia, cioè la Grecia le ha fatti tutti i colori, ha falsato le cifre, ha diremmo truffato nel linguaggio popolare, no? E però le si è imposto dei vincoli che ha accettato, rispettato, poi degli altri vincoli ancora più forti, poi non si è dato il minimo di solidarietà e la si è lasciata morire a poco, allora era meglio fare il default subito, se voi lo strozzate ad adagio. Quindi Papandreou, sentitosi alle corde, ha fatto come ogni politico fa, che pensa sempre e solo a breve, cioè ha fatto un guizzo in alto e ha detto referendum. Ma così veramente. Così mi blindo la maggioranza. Professor Prodi, su questo, scusi, lei dice come se uno si prendesse un raffreddore, non lo cura e poi diventa broncopolmonite. Cioè, per motivi elettorali della Merkel, del Land che lei citava, ma quindi era meglio farla fallire subito la Grecia, a sto punto, piuttosto che con questo accanimento terapeutico? Ma farla fallire secondo me non c'era proprio nessun bisogno, per quello che ho detto prima. Ma certamente adesso cosa si è fatto? Che la Grecia è in situazioni identiche a quelle che sarebbero avvenute se la si strozzava prima, e in più la polmonite, che non era magari una polmonite ma era una malattia infettiva, si è sparsa a tutti gli altri. Questo è il vero problema. Cioè non creda mica che il gioco di oggi fosse per la Grecia, no, chiaro. È partito per la Grecia, ma il gioco di oggi è sull'Italia e anche sulla Francia. Su questo possiamo dirlo che ha poco da ridere Sarkozy? Ma Sarkozy e la Merkel sono stati secondo me diabolici in questi mesi, perché rendendo l'Europa da un'Europa comunitaria in Europa intergovernativa, prendendosi loro il prevertice sempre, no? anche domani si incontrano prima di sì, beh, è una cosa ma ti si rende conto che ormai noi abbiamo accettato il prevertice, che detta tutto, poi un prevertice per modo di dire, perché è un prevertice in cui lui detta le regole, lei detta le regole e lui fa la conferenza stampa, insomma. Ma perché? È più Alfred e Mildred che Sarkozy Merkel, detta così. Ecco, va bene. Ma senta, perché Sarkozy tiene a questa blindatura? Da un lato per prestigio per la Francia, dall'altro lato attenzione che deve farsi diverso dall'Italia e dalla Spagna, perché le sue banche stanno peggio delle nostre, ma molto peggio delle nostre, perché hanno titoli pubblici e hanno anche tutte le cartacce che hanno creato questa crisi, no? No, chiarissimo, quindi lei dice sono stati diabolici, bisognerebbe capire se diabolici o poco furbi, perché mi sembra che gli si stia ritorcendo contro. Oscar. Presidente, posso farle due domande? Primo, non c'è anche un problema di risposta di suffragio universale? Cioè i tedeschi quando hanno recepito i trattati hanno introdotto un meccanismo per il quale praticamente il governo, lo abbiamo visto anche con la Merkel la settimana scorsa, deve sempre andare in Bundestag a farsi autorizzare, perché il principio della Corte Costituzionale tedesca è gli elettori tedeschi e i loro diretti rappresentanti devono autorizzare qualunque cosa. Allora, se vale per la Germania, allora deve valere anche per la Grecia, purtroppo, perché è un principio in contraddizione con l'edificio comunitario. No? I tedeschi hanno instaurato il principio per cui bisogna essere intergovernativi. E poi la mia seconda domanda, ma l'accordo bancario di giovedì al Consiglio europeo, che consente alle banche francesi e tedesche di non tenere conto nella pesatura degli asset liquidi e dei titoli che hanno, mentre invece invita paradossalmente le banche italiane a disfarsi dei titoli pubblici italiani, perché noi non ne abbiamo se non di quelli, in parole povere. Non è un accordo che dal punto di vista italiano avremmo dovuto discutere, quantomeno per gli effetti paradossali sulle banche italiane, proprio per quello che lei diceva adesso, Presidente. Sul primo problema lei ha perfettamente ragione, però la Grecia non ha questa norma costituzionale, però le ha dato una scusa politica. Sul secondo, non ha perfettamente, è incredibile quello che è successo, cioè si usa una simmetria contro l'Italia che fa spavento, però è come sparare sulla Croce Rossa, ma non vede che ogni giorno c'è un discorso diverso, non si sa che cosa si faccia e che cosa non si faccia. Il ministro dell'economia è latitante. Lo chiede anche a lei, chiede a Tremonti di parlare, Presidente. Ma insomma, lui era partito male, aveva acquistato una certa serietà internazionale, una certa fiducia. Negli ultimi 3 mesi ha rovinato tutto. In questi giorni era in giro per convegni, dove tra l'altro è brillante, ma non è più a Roma, e nello stesso tempo le dichiarazioni di Berlusconi e di Bossi, pensi a Berlusconi, che fa dopo che il giorno dopo esatto in cui in teoria aveva chiesto e ottenuto un soccorso europeo, dice: a me dell'euro non mi importa nulla, non lo voglio. Bossi ieri ha detto cose addirittura così abbastanza. Vabbè, era la sagra della zucca. Sì, però insomma, dobbiamo mettere il cuore al posto del tasso, ma insomma, ragazzi. Qua, oltre al cuore, bisogna mettere qualcos'altro se avanti così, professore. Però allora, quindi, mi dica una cosa, però ha ragione. Il punto di Oscar Giannino è fondamentale, cioè le banche tedesche e francesi hanno ottenuto dai loro governi di non mettere in contabilità cose tossiche, mentre chiedono alle nostre banche, che lo dico e sono certo di quello che dico, che hanno molti meno problemi di quelle tedesche e francesi, di liberarsi delle obbligazioni italiane. Questo è colonialismo bancario, e ieri giustamente l'ABI si è ribellata. In più gli ascoltatori debbono sapere che di titoli tossici le nostre banche ne hanno pochi, è vero, infinitamente meno pochi di quelle francesi. E oggi l'attacco alle banche francesi non è casuale. È netto. Mi dico una cosa, poi andiamo col traffico e poi torniamo in diretta. Molti ascoltatori dicono: ma insomma, professor Prodi, ex presidente della Commissione europea, presidente del Consiglio, è colpa sua se siamo nell'euro? È merito mio se siamo nell'euro. Vorrei vedere cosa sarebbe l'euro, se l'Italia, se non fossimo nell'euro. Questo lo dobbiamo dire, tutti lo dobbiamo dire. Però il problema è che mentre ci si era impegnati a far seguire gli atti di solidarietà, cioè di politica fiscale e di politica economica subito dopo l'euro, mi ricordo benissimo quando io dicevo a Kohl: qui non può essere la moneta sola, ma dice: intanto abbiamo fatto questo passo e gli altri seguiranno subito. Poi se sono intervenuti altri governanti in cui la solidarietà europea... Quindi comunque meglio con l'euro che senza, lei resta di questa idea, giusto? Ma pensi se l'Italia fosse senza l'euro? Pensi il disfacimento? Beh, esporteremmo con la lira, non so, a 2000 sul marco. Ma infatti perché? Perché la struttura economica italiana non è forte come potrebbe essere con le sue imprese e la sua imprenditorialità? Perché ogni volta che c'erano difficoltà si svalutava. A questo punto si è fatto marcire la struttura portante del nostro paese. Ci ha raggiunto anche Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Professor Prodi, che cosa deve fare il governo italiano? Cosa farebbe lei se fosse Presidente del Consiglio, alla luce anche dei 5 punti che lei ha visto oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina? I punti sono assolutamente perfetti, il problema è che non ha una voce con gli altri. Ma il governo italiano dovrebbe innanzitutto riunirsi subito e mandare un decreto legge che il Parlamento deve convertire subito, cioè dobbiamo mobilitare tutte le forze democratiche immediatamente per reagire. E poi cosa vuole? E domani, a quanto capito, si riuniscono Sarkozy e la Merkel di nuovo da soli alla vigilia del G8, e non ho visto che sia convocata l'Italia, non lo so, vorrei sbagliarmi, ecco. Ma se domani fossero convocato, il problema è dare garanzie di un'immediata esecuzione delle misure. E poi, se c'è bisogno, qui, ragazzi miei, io credo che quelli che hanno risorse in Italia, preferiscono perdere il 10% o il 5% delle loro risorse in una patrimoniale che non perderle tutte in uno sfascio del paese, insomma, dico, ma non si sono accorti dell'urgenza delle cose. Quindi lei dice Tremonti è latitante, ma Berlusconi dovrebbe indire subito un Consiglio dei Ministri, decreto legge, Parlamento che approva, ho capito bene le tappe? Dovrà pur dare garanzie all'Europa che le cose le fa, cioè è chiaro che non gli hanno creduto, no? Perché se no le cose sarebbero diversamente. Quindi il problema è dare una svolta alla nostra politica in modo da essere credibili. Deve tenere presente che sì, si è messa tutta l'attenzione sul problema del debito. Ma noi abbiamo lo stesso debito sul problema, scusi, del deficit, no? Il deficit è stato ridotto, sì, sì, ma da 3 mesi in qua il dibattito internazionale si è spostato sul debito. Sul debito. E sulla crescita. E quindi bisogna dare questa triplice garanzia. Quindi azione politica immediata. Alessandro Praterotti, voi domani farete, immagino, praticamente quasi un numero speciale su Sole 24 Ore sulla crisi. I 5 punti li ricordavamo, e l'azione politica anche da lì parte. Non c'è dubbio, poi fra l'altro non è tanto una questione politica quella dei 5 punti quanto quello che sta avvenendo oggi sui mercati, quello, diciamo così, se i mercati non credono all'Italia è anche perché vedono che in Europa non c'è un'infrastruttura tale da sopportare un'Italia in queste condizioni, una Grecia che naturalmente si sta muovendo pure in modo imprevedibile sui mercati con questa decisione del referendum, la Spagna ancora in difficoltà. Senza questo percorso in 5 tappe non è possibile stabilizzare né l'euro né dare un futuro a questa unione monetaria. Abbiamo ancora 4 minuti, mi puoi ricordare i 5 punti? Perché così i 5 punti tutti... sono, abbiamo detto, governo economico europeo, ovvero fatto l'euro, bisogna fare il governo dell'economia europea. Estensione del mandato della Banca Centrale Europea, la BCE deve poter agire come fa la Federal Reserve americana, non soltanto per la stabilità dei prezzi, ma anche per la stabilità, per la crescita economica. La Fed e il governo americano si muovono insieme sui piani di crescita, mentre invece la BCE non può farlo. Un bond per creare infrastrutture, ovvero l'Euro Project Bond, se non proprio un vero Euro Bond, ovvero una garanzia collettiva sulle emissioni di un singolo Stato. Ultimo punto, nel settore del credito va creato un vero mercato unico bancario, certo. C'è la direttiva SEPA, è stata approvata, ma la libertà di capitali è ancora ridotta, certo. E quindi bisogna fare di più. Allora, professor Prodi, una domanda poi passo, anzi Oscar Giannini, abbiamo un minuto a testa. L'altro tema è che cosa faranno i settori produttivi, si chiamano banche, industria, ABI, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, cioè quanto possono reggere? Posso leggere poco, in realtà dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che dalla tarda mattinata di oggi, riservatamente, traguardandosi con il nuovo vertice della Banca d'Italia Ignazio Visco, con il Quirinale, con il Capo dello Stato che è il punto di riferimento per tutti in questi mesi in maniera crescente, le 5 associazioni di impresa che il 30 settembre hanno formulato insieme i 5 punti per la crescita, hanno tornato a convergere su una richiesta che era la richiesta immediata di un Consiglio dei Ministri questa sera per varare provvedimenti, per varare prima del G20, prima del bilaterale franco-tedesco di domani, per attuare il maggior numero possibile delle promesse scritte solo sulla lettera. A oggi, a questo momento, quando abbiamo cominciato la trasmissione, ancora non avevamo una risposta. La cosa abbastanza incredibile è che a Palazzo Chigi non sono in condizioni fino a un'ora fa di avere i testi, ma di avere solo i titoli dei provvedimenti, e quindi su questo ci sono anche contatti riservati del governo con la Merkel e con Parigi. Siamo in una condizione nella quale non credo che sia giusto da parte mia giudicarla. Informiamo solo i nostri ascoltatori che l'associazione di imprese è da stamattina che sono al telefono con i vertici istituzionali della Banca d'Italia e del Paese, perché la condizione delle banche italiane e delle imprese italiane come dei patrimoni di tutti gli italiani merita un rispetto e una dignità per evitare una botta che questo paese, per la forza manifatturiera che ha, per il suo export che ha, per la prova di coesione che ha dato, non merita, e siamo in attesa di una risposta. Allora, professor Prodi, lei me lo dica in un minuto, in questo momento se vede un governo tecnico, ma non mi sembra che nel PD ci siano le condizioni per un governo alternativo, e se sì, chi vedrebbe il governo? Ma guardi, io non faccio queste cose, abbiamo persone che sono di altissimo livello, lei sa il livello di Monti o di altri, però io non so di giudicare se potranno avere la maggioranza in Parlamento. Sì, Alessandro Platerotti? Ma voglio chiedere, sono Alessandro Platerotti, buonasera. Ma secondo lei basterebbe un governo tecnico per placare i mercati o serve o l'instabilità, diciamo così, l'incertezza che verrebbe a crearsi con un avvicendamento al governo potrebbe soltanto creare nuove ansie? Peggiorare le cose, meglio o peggio? Tutto dipende dall'atteggiamento dei partiti, okay. È per quello che ho detto, non sono in grado di poterlo giudicare, perché un governo tecnico deve, o è un disastro o fa benissimo se sostenuto. Ma era meglio tenersi Draghi in casa a sto punto? Ma cosa vuole, dicono Draghi ci aiuterà, ma non ci Italia, ci Europa ci aiuterà a Francoforte.